Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. In attesa del primo album esce il suo singolo L'Unità d'Italia, un cantautore da scoprire. Paolo Antonio. Catanese a Milano da 3 anni, felicemente migrante per questioni culturali nonché economiche in questa città, ma con radici ben salde al mio terreno, ai piedi dell'Etna. Cantautore da tanto tempo, per emergenza, per necessità, forse per condanna, sai. Ho provato a smettere, ma niente, non ci si riesce. Com'è stato il tuo viaggio per arrivare a pubblicare un singolo, tra l'altro con un'etichetta importante, con collaboratori importanti come Giuliano Dottori, come Takeo Gohara? E non è scontato uscire con una squadra del genere? No, infatti io non ci credo ancora. Cioè, io sono un tardone della musica, nel senso scrivo da sempre, ma ho 36 anni ed è il mio disco d'esordio. Ho fatto un crowdfunding perché era veramente la mia ultima chance. E poi, strada facendo, grazie a un'associazione di cui faccio parte che si chiama Officine Buone, e grazie alla quale portiamo la musica negli ospedali italiani da 3 anni. È stato il mio primo palco quando sono arrivato a Milano, e proprio lì, in una di quelle occasioni, ho conosciuto Taiga, ho conosciuto Ilaria e Stefania, che sono diventate la mia etichetta. Insieme alla distribuzione di Artist First hanno pubblicato questo brano, L'Unità d'Italia, che è il primo estratto dall'album che ho prodotto appunto in crowdfunding, che doveva uscire in questo periodo, ma chiaramente abbiamo un attimino stoppato tutto perché mi piace molto suonare live, quindi sicuramente tra settembre e ottobre usciremo col disco e poi avrò finalmente il piacere di poterlo suonare. Bruciano gli altoparlanti dentro i cellulari, capovolgi il mappamondo e scendi mentre sali. Strappa almeno 11 pagine dai calendari, aspettami tutte le estati e poi tutti i natali. Torneremo per trovare ancora un po' di noi. Cercheremo nei diari, nei cortili, nelle polaroid. È un brano che sembra scritto per questi giorni, tra il 25 aprile e il 1 maggio, momenti importanti per il nostro paese, in un momento difficile. Cioè, sembra scritto con la palla di cristallo. Guarda, questa cosa mi fa anche paura, nel senso, è stato un po' profetico, ma chiaramente non potevo aspettarmi questa cosa quando ho scritto il brano a ottobre. Diciamo che è un po' un diario di Terrone al nord, nel senso, io ho lasciato la mia città, sentivo che ogni volta che andavo giù a Catania stavo recitando la parte di essere la stessa persona che se n'era andata, ma in realtà non ero così. E allora viene fuori questo ritornello che dice: torneremo per trovare ancora un po' di noi. E parlava appunto di tutti noi che ci incontriamo nelle grandi città d'Italia, ma che veniamo da altre parti del mondo, non solo d'Italia, e che fondamentalmente facciamo una nuova comunità che io ho chiamato l'Unità d'Italia. Rivista, riascoltata in un momento diverso, in questo momento la canzone ha cambiato completamente il suo significato. L'esperienza che condividiamo fa l'Unità d'Italia ed è l'esperienza della nostra reclusione e di scoprirsi anche diversi, spero migliori. Per quel che mi riguarda, questa esperienza mi ha fortificato moltissimo e mi ha anche semplificato moltissimo come persona e come sensibilità. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Paolo Antonio. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.